Come introdurre la mia lezione? Allora, abbiamo detto che sia io che Luca siamo storici del pensiero economico. Abbiamo partecipato, accolto volentieri l'invito di Luigi. Anticipo subito da parte mia che io non sono un esperto di crisi economiche. D'altra parte non vorrei neanche oggi proporvi una rassegna tematica di ciò che tutti gli economisti del passato, a partire ad esempio da Malthus, che è un autore che io conosco bene avendolo studiato, hanno scritto sulla crisi. Ho preferito affrontare questo compito circostanziando la lezione su un tema che a me è molto caro, cioè il tema della disuguaglianza. Perché? Mi piace molto l'idea che appunto questo ciclo di seminari e questa prima lezione si chiami i concetti della crisi, nel senso di avere questo fenomeno da analizzare da diverse sfaccettature. Ecco, oggi io non vi proporrò una definizione di crisi a tutto tondo, ma mettendo a fuoco un argomento che è senz'altro dibattuto, ma probabilmente la relazione tra il tema della disuguaglianza e la crisi viene dibattuto molto meno di quanto meriterebbe. Ora, anticipo subito, io non starò oggi a dirvi che per capire la crisi che stiamo attraversando sia sufficiente guardare alla prospettiva che io oggi vi propongo. Semplicemente cercherò di farvi capire che questa prospettiva ha un certo rilievo. Lo spazio che occupa, il ruolo che vi occupa, questo è argomento di discussione, non è argomento su cui vi è condivisione e giudizio, ma ritengo comunque che sia una prospettiva importante. L'altro aspetto che mi spinge anche a proporvi questo argomento è che porre in relazione il problema della disuguaglianza con la crisi economica sarebbe molto facile in un'ottica poniamo marxista o keynesiana, d'accordo? Questo è abbastanza consolidato. Ecco, io oggi vi mostrerò che in verità anche piloni di pensiero, diciamo, più ortodosso, e vi mostrerò alcune citazioni di alcuni economisti contemporanei, riconoscono il legame che c'è tra la disuguaglianza e questa crisi. Quindi a dirvi che non è solo un'ottica diciamo di scuola dottrinale, che sia marxista o keynesiana, che pone, per i quali è più congeniale riconoscere il ruolo avuto dalla disuguaglianza, ma il discorso è molto più ampio. Qui come mai? Sta andando avanti da solo? No. Va bene. Allora, l'altro aspetto che vorrei toccare è anche darvi un inquadramento generale di quello che ho chiamato le dinamiche distributive, cioè mi sembra un tema importante capire che evoluzione ha avuto diciamo disuguaglianza in soldoni, i mutamenti intervenuti più o meno nell'ultimo secolo dal punto di vista dell'aumento e della diminuzione della disuguaglianza, mi sembra un aspetto fattuale importante di cui tener conto. Allora, salto alcuni aspetti che avevo pensato dal punto di vista dottrinale, per, magari poi li riprenderemo sulla base dell'intervento di Luca. Allora, se c'è qualcosa che non vi è chiaro, qualche concetto che non penso di utilizzare termini tecnici molto difficili, di sicuro non dovrò utilizzare, ma magari dopo ho ascoltato cose che non lo sono, fermatevi pure, fate la domanda. Allora, io andrei subito a questo testo che è di un economista americano che è stato pubblicato nel 2006, poco prima lo scoppio della grande crisi che stiamo attraversando. Questo testo è molto interessante perché poneva a confronto i decenni antecedenti la crisi del 1929 e la crisi del 2001, perché non dimentichiamoci che noi stiamo attraversando una crisi iniziata, alcuni ritengono nel 2007, altri nel 2008, ma non ha importanza, una crisi che in verità aveva avuto dei prodromi manifesti già nel 2001 con lo scoppio di quella che era stata la bolla speculativa della New Economy. immagino qualcuno di voi si ricorderà. Ecco. È interessante andare a vedere questo scritto proprio perché mostra in negativo l'argomento che io vi proporrò. Questo insomma, un autorevole economista americano che ha messo in evidenza il parallelo nei decenni precedenti queste due crisi per vedere gli elementi che accomunano questi decenni precedenti e vedere se ce n'erano in effetti degli aspetti in comune. E in effetti ha individuato, è molto emblematico perché andando a vedere alcuni indicatori macroeconomici fondamentali, ci sono similitudini, e questo economista ce lo dice, veramente incredibili tra i decenni che hanno preceduto quella che fino a poco tempo fa si riteneva la più grande crisi attraversata dalle economie capitalistiche, cioè quella iniziata nel 29 e poi proseguita per tutti gli anni 30, e la crisi che stiamo attraversando, che molti ritengono stia raggiungendo per intensità qualcosa di analogo a quella del 29. Ecco, vi sono degli indicatori che mostrano macroeconomici assolutamente comparabile per quanto riguarda i due decenni che hanno preceduto rispettivamente le due crisi. Allora, qui vi è un elenco di questi indicatori macroeconomici che sono del tutto comparabili, nel senso che hanno avuto dinamiche del tutto simili, quindi una crescita sostenuta del PIL per almeno un ventennio precedente, un tasso di disoccupazione molto basso accompagnata da bassa inflazione. Forse per voi la curva di Phillips non vi dice molto. La curva di Phillips è uno strumento macroeconomico, o meglio una relazione macroeconomica in base alla quale vi sarebbe una relazione inversa tra inflazione e disoccupazione, cioè solitamente, empiricamente si è registrato che nei periodi di bassa inflazione c'è maggiore disoccupazione e viceversa. Ecco, in questi due periodi, proprio in soldoni, in questi due per decenni che hanno preceduto le due crisi, invece la curva di Phillips non si è realizzata, si sono avuti bassa inflazione e tassi di disoccupazione relativamente bassi, produttività molto elevata, un progresso tecnologico altrettanto sostenuto, evidentemente in settori diversi per quanto riguarda i due periodi. Pensiamo, ma qui siamo nel periodo della cosiddetta seconda rivoluzione industriale, quindi ambiti come l'elettricità, nuovi combustibili, eccetera, mentre il progresso tecnologico per quanto riguarda i decenni che hanno preceduto la crisi del 2001 riguardavano soprattutto tecnologie informatiche delle comunicazioni, insomma. E in entrambi i casi l'evento, diciamo l'aspetto fenomenico più eclatante, il boom del mercato azionario, in entrambi i casi poi è stato, diciamo, quello che ha dato manifesti i primi sintomi della crisi che poi è defagata. Allora, questi, diciamo, sono alcuni indicatori messi su un grafico. Nella linea tratteggiata si vedono alcuni di questi indicatori per quanto riguarda il periodo tra il 1913 e il 1932 sulla linea tratteggiata, e l'altro tra il 1984 e il 2003. E insomma, sono, in effetti, Gordon ha individuato veramente gli indicatori che mostrano come le tendenze macroeconomiche fossero veramente molto simili. Questo è l'indicatore del PIL, per documentare, vado velocemente perché insomma il concetto spero di avervelo trasmesso. Questo economista ci sta dicendo: nei vent'anni che hanno preceduto le due crisi veramente sono state accadute cose molto simili. La crescita della produttività anche qui è comparabile, la disoccupazione, ecco, l'unica dissonante, perché dopo il 29, nel periodo tra il 13 e il 32, c'è stato un immediato schizzo in avanti della disoccupazione, cosa che non è accaduta invece immediatamente dopo la crisi del 2001, ma per quanto riguarda i decenni precedenti la dinamica è ancora piuttosto simile. La quota degli investimenti sul PIL, anche in questo caso c'è stata una diminuzione drastica dopo il 29, cosa che non è accaduta dopo l'1, ma dal punto di vista della dinamica ancora c'è una sovrapposizione. E poi evidentemente la bolla speculativa, la crescita del valore dei titoli azionari, che segue un andamento ancora molto simile quando messi sovrapposti l'uno con gli altri i due ventenni, che arrivano nel 29 e nel 2001, con il picco, con l'esplosione della bolla che ha fatto cadere. Ricordiamo, stiamo parlando della crisi del 2001. Allora, quindi Gordon arriva alla conclusione nel dire che effettivamente gli indicatori economici erano molto simili, quindi ci sono state dinamiche dal punto di vista economico che sono assolutamente comparabili, che si sono tradotte in un'euforia finanziaria e quindi una bolla speculativa risolta con il collasso del mercato azionario. Tuttavia, vabbè, insomma, qui vado un po' velocemente, con un ridimensionamento soprattutto delle imprese che avevano trascinato la crescita, quindi quelle sulla frontiera tecnologica, ad esempio le dot-coms nel caso della crisi del 2001. Tuttavia, l'ottimismo di Gordon nel 2006 l'aveva portato a esprimere questo convincimento. Dopotutto, nel 1929 si è aperta una falla che ha generato una crisi catastrofica dalle dimensioni inaudite, mentre nel 2006 Gordon poteva dire: beh, dopo tutto ce la siamo cavata bene, c'è stato qualcosa di simile, siamo giunti sulla soglia di qualcosa di molto simile al 1929, avevamo dei fondamentali del tutto uguali, poi però ce la siamo cavata. 2001, una recensione breve che è stata risolta, sembrava risolta nel 2005. Allora, Gordon fa le lodi della accorta politica monetaria realizzata dalla Fed, dalla Banca Federale, dalla Banca di Emissione Americana, la quale avrebbe risposto in modo adeguato al periodo di crisi, riducendo i tassi, riducendo la pressione fiscale, cosa che invece non era avvenuta negli anni 30, perché dove a seguito della crisi vi era stata una restrizione monetaria. Ecco, forse quando parlare di restrizione monetaria, Luigi, riescono a però spiegare. Ci penso io dopo. Magari lo riprende. Ecco. Magari Luca poi complementa. Insomma, arriva a dire: siamo stati bravi. Siamo usciti dalla crisi con una corta politica monetaria e questo lo porta a escludere l'altro elemento che avevo trascurato di mettere nel grafico come elemento di comparazione tra i due periodi. Oltre a tutti quei dati macroeconomici che vi ho mostrato, che individuavano assolute analogia tra i due periodi che avevano preceduto la crisi, ce n'è un'altra molto importante, c'è un altro indicatore molto importante. In entrambi i decenni, ossia nei decenni che hanno preceduto il 29 e nei decenni che hanno preceduto la crisi del 2001, c'è stato un sensibile aumento della sperequazione nella distribuzione dei redditi. La disuguaglianza è cresciuta enormemente. Ora, questo dato, che è il dato comune, porta Gordon, che pure lo prende in considerazione e si avvale delle statistiche di questi autori che sono internazionalmente coloro che in questi ultimi anni hanno fornito una quantità empirica impressionante sulle dinamiche distributive in atto nelle società capitalistiche, dice: beh, in effetti la disuguaglianza è aumentato, ma il fatto che dalla crisi del 2001 ne siamo usciti vuol dire che probabilmente la disuguaglianza non è un fattore così rilevante. Ecco, questo, diciamo, un'argomentazione negativo per introdurre l'argomento di cui vorrei occuparmi, che vi propongo, perché il fatto che dopo il 2001, che è stato praticamente una prova generale di quello che è accaduto dopo, il fatto che una crisi di portata analoga a quella del 29 sia in effetti scoppiata tra il 2007 e il 2008, forse fa pensare che quel dato della disuguaglianza sia un dato comune ai decenni che hanno preceduto le due crisi da non sottovalutare, perché di fatto quella del 2001 è stata una prova generale, una crisi che poi ha messo in atto un sistema di vasi comunicanti prima di arrivare al tracollo generale, la crisi di borsa, poi è defluita sulle materie prime, poi è andata sul mercato immobiliare, dal mercato immobiliare è tornata sulla borsa con i fenomeni, insomma, l'ordine del giorno che voi tutti conoscete, avete letto sui mercati, avete letto sui giornali. Quindi questa variabile della disuguaglianza, che nell'opinione di molti economisti non era così strategica, diciamo, per comprendere le dinamiche della crisi, non è da sottovalutare, tenendo conto che la crisi in effetti è scoppiata e la portata è analoga a quella del 29. Il paradosso è che il livello dei consumi nei decenni che hanno preceduto la crisi si sono mantenuti molto elevati. Si sono stati mantenuti molto elevati, ma a che condizione? A condizione di e qui parliamo soprattutto logicamente del caso americano. Nel caso americano è la situazione dove le dinamiche sono all'estremo, ma che riflettono dinamiche che in atto anche negli altri paesi. E il meccanismo che ha permesso di mantenere elevati i consumi è stato l'indebitamento. L'indebitamento che è stato stimolato in vari modi, ad esempio dai bassi tassi di interesse che Gordon ha elogiato, dalle stesse politiche, lo dice anche questo libro qui dopo alla fine del mio intervento che richiamerò, politiche di ambedue gli schieramenti, repubblicani e democratici negli Stati Uniti, ma conservatori e sinistra liberali in Europa, consapevoli di queste sperequazioni crescenti, la strategia che è stata attuata per tamponare queste sperequazioni crescenti è stata quella di facilitare l'accesso al credito. Evidentemente questo dato è eclatante negli Stati Uniti, dove non solo c'è il dato che conosciamo tutti dei mutui che sono esplosi, l'acquisto della casa, ma anche gli acquisti a rate e così via, che hanno permesso a una miriade di persone che vedevano progressivamente ridursi il proprio potere d'acquisto mantenere comunque elevati i propri consumi. Il gioco però ha potuto reggere solo fino a un certo punto. Allora, quel potrebbe ripetersi, che è un titolo di un famoso economista, non so se lì magari Luca può essere, che Minsky, matrice keynesiana, gli accennerà. Quel potrebbe ripetersi, in effetti si è realizzato, perché nel 2007-2008 è iniziata una crisi di portata analoga a quella del 1929, e il fatto che entrambe le crisi siano arrivate dopo un periodo di sensibile aumento della disuguaglianza, questo è un dato di cui un numero sempre maggiore di economisti ritiene sia necessario tenerne conto. E ripeto, l'argomento è molto congeniale e facilmente si può svolgere facilmente in un'ottica keynesiana o marxiana, ma ripeto, il mio intento invece è quello di mostrare come questa consapevolezza sul fatto che la disuguaglianza potrebbe aver alimentato la crisi è un dato che viene riconosciuto da una gamma di economisti molto eterogenei e non collocabili entro particolari indirizzi di pensiero. Allora, vorrei fare un attimo un passo indietro per dirvi brevemente da dove arriva questo aumento della disuguaglianza. E per capire da dove arriva questo aumento della disuguaglianza è bene partire in un'ottica di lungo periodo, e un punto di riferimento che mi sembra imprescindibile è questo, che è un saggio paradigmatico, possiamo chiamarlo, di Kuznet, che ha elaborato quella che viene chiamata la famosa curva di Kuznet. Magari qualcuno di voi, come spesso accade, una certa forma di un fenomeno viene individuato per descrivere un particolare fenomeno e poi è esteso anche ad altri fenomeni. Cioè Kuznet ha individuato un fenomeno a U rovesciata, che spesso viene utilizzato, le curve di Kuznet vengono utilizzate anche per studiare i fenomeni ambientali, ma se per caso qualcuno viene. A noi interessa l'ambito in cui ha applicato Kuznet questa sua indagine, che è esclusivamente empirica, dove l'oggetto della ricerca di Kuznet era semplicemente questo: nell'arco della, diciamo, la società capitalistica, a partire dall'Ottocento in poi, che dinamiche ha manifestato dal punto di vista distributivo, ossia dal punto di vista dei cambiamenti nella distribuzione del reddito e della ricchezza. Kuznet ha individuato una, non è una teoria, una relazione empirica, una relazione di lungo periodo, la quale mostrerebbe una tendenza all'aumento delle disuguaglianze nel primo periodo, quindi un aumento della disuguaglianza, che tocca un picco e poi progressivamente cominciano a decrescere. Ecco appunto la dinamica ad U rovesciata. Questa dinamica Kuznet ritiene di averla individuato per un numero considerevole di paesi, e in effetti quando Kuznet ha scritto questo saggio, una serie di ricerche empiriche, qualche critica c'è stato, ma le dinamiche, diciamo i dati empirici in larga parte hanno confermato le intuizioni di Kuznet. Perché nella fase iniziale dello sviluppo economico di tipo capitalistico le disuguaglianze tendono ad accentuarsi, ad aumentarsi? Perché diciamo nella fase iniziale dello sviluppo l'economia vive di un dinamismo tale per cui vengono colte maggiori opportunità di reddito dalle persone diciamo maggiormente intraprendenti, che riescono a sfruttare la dinamicità del sistema che permette di acquisire e di accumulare grandi ricchezze che poi vengono magari trasmesse e consolidate, e questo genera solitamente nelle fasi iniziali appunto questa concentrazione di ricchezza nelle mani dei primi imprenditori. Pensate a diciamo alle prime forme di industrializzazione, dove i nuovi arrivati che diciamo riescono a arrivare su un terreno vergine riescono ad accumulare grandi ricchezze. Ci sarebbe anche un discorso rapporto città-campagna, ma che trascuriamo, vado abbastanza velocemente. L'aspetto importante invece è che Kuznet ritiene che queste forze che alimentano la concentrazione del reddito e la ricchezza tendono a raggiungere un picco oltre, poi arriveremo sul concreto, adesso espongo il modello in modo molto astratto, ma arriviamo al punto a dare concretezza al discorso. Si arriva a un certo punto dove all'interno delle società capitalistiche vengono innestano meccanismi che portano a bloccare quella tendenza all'aumento delle disuguaglianze e a far invertire addirittura la tendenza. Almeno tre possiamo accennare a queste forze controtendenziali rispetto alle forze che contribuiscono a aumentare la disuguaglianza. La maggiore forza sindacale, sapete che nelle fasi iniziali dello sviluppo capitalistico i sindacati sono addirittura fuori legge, d'accordo? Kuznet scrive nel 55 quando i sindacati, dopo lotte decennali, sono finalmente riusciti a riconoscere il proprio ruolo e quindi a garantire una tutela delle forze lavoratrici. Ecco, questo è un argomento controverso, ma la convinzione è che il risparmio, che inizialmente è una forza sperequativa, perché il risparmio viene concentrato presso quelle famiglie, di quegli imprenditori, di quelle imprenditori più intraprendenti, poi diventa a lungo termine, si trasforma in un fattore perequativo, perché se il risparmio viene reinvestito, questo allarga la base produttiva e genera diciamo una crescita che va a beneficio di una moltitudine. Ripeto, stiamo pensando negli anni tra il 50 e il 60, quando c'è stata un giorno, prego, prego. Eravamo in periodo di boom economico per la maggior parte dei paesi, non soltanto dell'Italia ma di tutti i paesi del mondo, e quindi in effetti eravamo ancora nel pieno di quella società industriale dove questa investimento del risparmio poteva, in effetti, questa destinazione del risparmio in ambito produttivo poteva generare in effetti questi effetti perequativi. E poi soprattutto sono state le politiche redistributive. Politiche redistributive, in soldoni welfare state, che si è manifestato in diverse fasi, prima di tutto sul lato dell'imposizione, con l'imposizione progressiva, quindi, e poi sul lato dell'uso delle risorse pubbliche, con la fornitura dei servizi di welfare, sanità, scuola, capitoli per eccellenza, che hanno contribuito ad diminuire le disuguaglianze. Quindi tra gli anni 50 e 60 eravamo in effetti, avevamo già superato l'apice della fase di crescita della disuguaglianza e questa disuguaglianza stava sensibilmente diminuendo. E questo in tutti. E questo in tutti i paesi, addirittura anche gli Stati Uniti, che sono i paesi che a minor vocazione welfaristica, dove più debole è sempre stato il welfare state e le politiche redistributive, però politiche parte redistributive sono avvenute anche negli Stati Uniti. Pensate, un dato che raramente viene menzionato, intorno in questo periodo l'aliquota marginale sui redditi più alti, che toccava pochissimi redditi, però era superiore al 90% negli Stati Uniti. Provate a pensare cosa vorrebbe dire questa. Allora, tutto questo in quegli anni era in effetti all'opera. Vado avanti o vuole fare un intervento? Sì, scusi, ma non riesco a collocare in questo quadro la crisi del 73. Cioè, è stata disinnescata da queste politiche? No, la crisi del 70. Allora, qui rispondi alla fine. Questo aprirebbe un capitolo, una risposta potrei dargli. Allora, alcuni ritengono che la crisi attuale inizia al 73, cioè è tutto il 73, dal 73 si chiude un ciclo, diciamo 73, la fine degli accordi di Bretton Woods Gold Standard, si chiude un ciclo di accumulazione e da lì comincia quella lunghissima fase di transizione che chissà quando si terminerà. Però questa è una prospettiva diversa. Magari la riprendiamo dopo alla fine, perché però è corretto, perché la risposta che posso dirle è che tutto il mio ragionamento potrebbe essere, io ho centrato sulle crisi più manifeste, ma alcuni ritengono, e io sinceramente sono abbastanza d'accordo, sul fatto che sia un intero ciclo di crisi che inizia dal 73. Peraltro la lezione di mercoledì prossimo approfondiremo proprio questi aspetti. Comunque è assolutamente pertinente alla sua domanda. Allora, ripeto, questa curva di Kuznets, lo status, cioè è stata ritenuta, ripeto, alcune critiche sono state formulate, ma molti hanno ritenuto che in effetti i dati empirici mostravano tendenze di quel tipo. Però c'è un problema a cui io non ho trovato nessuno abbia dato una risposta. Se la curva di Kuznets è vera e nei 60 più o meno stava manifestando segnali di quel tipo, se è una U rovesciata, a un certo punto dove arriva la diminuzione della disuguaglianza? Dove arriva, attenzione, diminuzione della disuguaglianza, processo di democratizzazione economica? Cioè la società capitalistica si può permettere un meccanismo, un processo che la porta a essa stessa a realizzare l'obiettivo socialismo e tante cose, ma tra le tante cose uno degli obiettivi del socialismo è realizzare una società più uguale, meno diseguale. Può essere che la società capitalistica possa realizzare questi obiettivi che sono propri della società? Ecco, Kuznets ha lasciato, sinceramente io questa domanda non l'ho trovata esplicitata, la mia curiosità. E a mio parere è una domanda inevasa, nel senso che nel 60 era in pieno svolgimento quel processo di democratizzazione economica, la intendo appunto come riduzione delle disuguaglianze di reddito e di ricchezza che erano in corso. Ecco, questa domanda che io non ho visto porsi è rimasta inevasa, ma la risposta è stata data dalla storia. La storia ha dimostrato che se la curva di Kuznets aveva una propria parvenza di verità, questa storia è saltata, con questa validità della curva di Kuznets è collassata a partire dagli anni 70-80, quando quel ciclo, cioè la curva faceva così, la disuguaglianza aumenta e poi diminuisce, e poi dalla fine degli anni 70 la UE è tornata nella sua posizione normale. Allora, quindi è la storia che ha dato una risposta perentoria. Vedete qui, qui ci sono una serie di grafici. La disuguaglianza si misura in vari modi, si fa uso dei percentili. Riguardo alla fine di questa curva, come modello possibile di risposta si possono prendere gli stati del nord Europa, la Svezia, la Norvegia e la Danimarca, che presentano un modello economico misto che... Allora, lei cosa si aspetterebbe all'interno di questi stati? In che senso? Rispetto a questi grafici. Cioè, probabilmente questi stati hanno stabilizzato la dinamica della disuguaglianza e in effetti in questi stati quel processo che io vi sto descrivendo si è avvenuto con un'entità molto ma molto inferiore. Quindi questi stati, avendo mantenuto un solido welfare state, hanno allentato le dinamiche sperequative e questo processo di aumento delle disuguaglianze che stiamo discutendo si è verificato in misura molto più blanda. Allora, qui vedete, su questo, ripeto, la disuguaglianza si può misurare in vari modi, si misura con l'indice di Gini, si misura con la percentuale di reddito detenuto dal 10% più ricco della popolazione, dall'1% più ricco della popolazione, in vari modi. Poi vi farò vedere anche un dato concreto molto più, diciamo, percepibile. Comunque, ad esempio, qui la quota dell'1% più ricco della popolazione. Vedete qui che ancora qui si vedono gli effetti. Allora, la quota più ricca di popolazione aveva ha avuto una quota crescente di reddito fino più o meno al 29. Allora, qui abbiamo Stati Uniti, Canada, Regno Unito, Francia e Giappone. Vedete che le dinamiche, con qualche differenza, sono molto simili. Allora, si arriva a una fase di un picco, poi progressivamente discende. Arriviamo più, vedete? Qui vediamo ancora gli effetti della curva di Kuznets che fa così, qui manca la prima parte. Poi però arriva, quel processo di democratizzazione arriva fino ai 70 e poi si interrompe. E qui la disuguaglianza riprende a salire. Ci sono tantissimi grafici di questo tipo. Questo è l'ultimo decile, il 10% più ricco della popolazione. Non ho indicato a che cosa fa riferimento questo grafico, scusate, non lo ricordo. Comunque non ha importanza, insomma, l'altro era molto esplicito e anche questo direi che è piuttosto esplicito nel mostrare questa tendenza. Quindi, anche nella letteratura scientifica, appunto, oramai si è imposto questo rivolgimento della curva di Kuznets, è un dato, vedete, alcuni indicatori che vi è il pieno riconoscimento che quella domanda cosa avrebbe potuto fare la società sociale capitalista nel processo di democratizzazione economica, vabbè, nessuno se l'è posta, ma la storia ha risposto che non si poteva portare avanti oltre certi livelli. E dopo il 70 e gli 80 la disuguaglianza è tornata a crescere, raggiungendo di nuovo gli stessi livelli del 29. E qui torniamo di nuovo a quel problema che Gordon, quell'economista che ho citato all'inizio, alcuni hanno frettolosamente trascurato questo dato. Quindi, per un attimo, mi è stato chiesto di dirvi se volete un'aula più grande, perché oggi abbiamo la possibilità di dargliela. No, ma ci stiamo. Grazie, molto gentile. Grazie. Allora, quei pochi grafici che vi ho mostrato, ripeto, sono abbastanza, vi è uniformità di vedute dal punto di vista dei dati a riconoscere che la disuguaglianza è sensibilmente aumentata. Certamente le interpretazioni sono totalmente divergenti tra le diverse. Allora, quali sono le spiegazioni? Possiamo accennare. Qui vi sono... ripeto, qui io avrei potuto citarvi una serie di economisti marxisti o keynesiani, invece vi cito una serie, vi riporto alcuni brani di economisti del tutto ortodossi a quello che si chiama mainstream economics, quindi non vi propongo interpretazioni radicali. Qui è esplicito nel racchiudere in modo molto sintetico il fatto che questa aumento della disuguaglianza oramai è un dato assodato che ha diverse cause. Una causa tra le cause fondamentali è questa, è una interpretazione se volete ideologica, però la possiamo chiamare così, è la controrivoluzione conservatrice che si è realizzata a partire dalla fine degli anni 70, dagli anni 80. Sono questa controrivoluzione conservatrice a due anime, una politica ed una economica. Quella economica ci vorrebbero un corso intero per spiegarla, perché è il venir meno dei presupposti keynesiani con la rivoluzione monetarista. Questo, ragazzi, probabilmente io temo che per voi sia arabo, ma per consolarvi anche ai miei studenti del terzo anno di economia politica, monetarismo sapete che cos'è? Boh. Quindi comunque monetarismo, per dirvi un nome che invece è Milton Friedman, qualcuno di voi l'avrà sentito da l'eco politico, ma Milton Friedman è importante dal punto di vista economico perché ha contribuito ad annacquare le fondamenta del pensiero keynesiano, che era quello che legittimava l'intervento dello Stato nell'economia e quindi le politiche redistributive, perché Keynes diceva la spesa pubblica contribuisce a stabilizzare il ciclo, basta che facciamo paghiamo qualcuno per fare delle buche e poi riempirle, che facciamo del bene. Ora, siccome non c'è bisogno di fare delle buche, ma possiamo fare altre cose, per assurdo il ragionamento keynesiano legittimava il fare buche e poi riempirle, ma logicamente questo poteva essere applicato a pagare qualcuno per fornire servizi sociali redistributivi. Allora, monetarismo viene affossato, fondamento keynesiano che legittimava l'intervento dello Stato, e questo è un problema, ragazzi, per il quale non so se Luca lo toccherà, ma ci vorrebbe un intero ciclo, ma in questi ciclo di lezioni io penso che da altre prospettive verrà affrontato. E poi l'altro frangente è quello politico, chi è che incarna il messaggio politico monetarista a partire dagli 80? Thatcher e Reagan. Questo sapevo che vi trovavo pronti, e i miei studenti invece neanche su questo sono pronti. Allora, queste due miscele genera la reazione nei confronti del ruolo redistributivo, e quindi genera la riduzione delle tasse. Da Reagan, vi ricordate, nessuno ricorda che negli Stati Uniti l'aliquota marginale era oltre il 90%. Reagan inizia, poi Bush completeranno l'opera, la porta intorno al 30%, in una... quindi un venir meno delle e poi le liberalizzazioni logicamente il mercato del lavoro che ritorna un mercato dove le parole d'ordine diventano flessibilità, eccetera. Insomma, è inutile che mi dilunghi su questo, magari penso che... Allora, qui sono... Luca, qui Stiglitz, questi non sono economisti particolarmente radicali, cioè scrivono queste cose, economisti che sono organici, al fitussi, anche, hanno ascendenze keynesiane, ma nemmeno troppo radicali, e sono riconosciuti. Allora, quindi queste liberalizzazioni, soprattutto nel mercato dei capitali, e qui sulle liberalizzazioni del mercato dei capitali ci sarebbe un capitolo molto lungo da fare, che peraltro si lega alla crisi del 73, perché uno degli effetti della crisi del 73 è stata quella di aver, col 73 si è manifestato una delle prime crisi di redditività dei settori manifatturieri, soprattutto americani. Ora, questa crisi di redditività ha obbligato le imprese manifatturiere a cercare canali remunerativi non più nel settore reale, ma nei mercati finanziari. Allora, qui è cominciata quella esplosione dei mercati finanziari. Però tranquillo. Il punto sono. Dimmi magari per regolarmi. 5-10 minuti, dai. E logicamente questi mercati finanziari hanno dato opportunità di guadagni. Probabilmente anche guadagni con un fondamento molto limitato, che è un altro fattore che ha contribuito a aumentare le disuguaglianze. Domanda? Su scusate, posso chiedere delle domande se volete fare? Facciamola, va bene. Sono stato io stesso a stimolare, va bene, però no, non voglio. No, va bene. Io direi una cosa, però, se sono domande legate alla comprensione di quello che ha detto, fatele subito. Se invece sono un po' più articolate, tenetele per la fine. Giusto. Preferisce farlo. Allora, sostanza. Questo fattore di disuguaglianza oggi è riconosciuta da un numero molto ma molto ampio di economisti, non solo di estrazione marxista o keynesiana. Questo è un autore tra i più che da diversi anni sta studiando questi argomenti. So che è in corso di traduzione in italiano forse un suo libro, spero presto. Questo Branko Milanovic è il più esplicito, insomma sono citazioni che semplicemente cercano, insomma, più autorevoli di me, ve le riporto semplicemente per dire attenzione, non è che Maccabelli, storico del pensiero economico, si sta inventando queste cose, ve le riporto solo così. Poi sul testo che vi ho distribuito molte di queste citazioni sono riportate e le trovate facilmente. Allora, ancora qui alcuni, dopo il 73, la prima crisi è stata, dopo la prima crisi del 73 l'economia ha avuto una nuova fase di belle époque, anni 80 e anni 90, d'accordo? E tuttavia questa crescita che c'è stata in questi decenni tra gli 80 e il 90 è stata una crescita che è andato a vantaggio di pochi, di un numero limitato di persone. E anche qui i dati, possiamo prendere diversi indicatori, ma guardate, ce n'è uno che mi sembra molto... Ecco, questo è il dato molto indicativo nel mostrarvi il mutamento che è intervenuto. Fa ancora riferimento al mercato americano, ma è molto... questo è il rapporto tra... la remunerazione media di un operaio impiegato, non è che ci sia sta grande diversità nel settore manifatturiero, e quello che nell'ambito delle nostre strutture organizzative delle società per azioni chiamiamo amministratori delegati e che CEO nel linguaggio degli Stati Uniti. Però guardate questo rapporto, se il rapporto era 41 nel 1980, già un gruppo, cioè quindi in media la remunerazione di un amministratore delegato era 40 volte quella di la remunerazione media di un lavoratore manuale impiegatizio nel settore manifatturiero, già un rapporto considerevole. Nel 2000 è passato 475-1, e qui ci stanno in mezzo tutte la crescita delle remunerazioni degli amministratori delegati, soprattutto delle società finanziarie. Questo ha un legame con le libere azioni? Assolutamente sì. È successo in maniera minore quello che è successo in Unione Sovietica, cioè che lo Stato ha venduto e... No, beh, in Unione Sovietica io penso che sia accaduto qualcosa di molto simile, cioè anche in Unione Sovietica nel momento in cui è collassato il sistema socialista, nel momento in cui sono state introdotte le liberalizzazioni, e attenzione, qualcosa di simile sta accadendo in Cina, nel momento in cui si lasciano libere le briglie del mercato, chi ha capacità ne approfitta, nel bene e nel male. Nel bene e nel male, chi ha capacità ne approfitta e accumulano, in modo anche legittimo se vogliamo, enormi ricchezze. Quindi sì, io direi che il paragone ci sta. E c'è stato anche in Occidente in metà di intenti tra chi ha liberalizzato e chi ha comprato... Non ne so rispondere, forse Luca più di me. No, questa è una bella domanda, ma non so rispondere davvero. C'era un'altra... Sì. Sì, ma l'aumento di stipendio degli amministratori delegati, diciamo, no? Era più, diciamo, è in relazione più all'aumento della speculazione finanziaria che non all'aumento di produttività delle aziende. Difficile dirlo. Sono due elementi che stanno insieme, nel senso che per lungo tempo si è ritenuto che gli stipendi, ad esempio, delle imprese finanziarie avessero stipendi da capogiro perché si erano dimostrati molto produttivi. In quel momento lo dicevano. Nel 2008, alla Lehman Brothers, qualcuno avrebbe detto di no. Quando lo Stato, la Lehman Brothers è stata lasciata fallire, ma altre istituzioni finanziarie non sono state lasciate fallire. Lo Stato ci ha messo i denari. Queste remunerazioni non sono cadute di colpo, anzi alcuni amministratori hanno preso liquidazione da capogiro, c'è stata una sollevazione popolare. In quel momento, nel 2008, qualcuno avrebbe potuto dire: ma noi ti pagavamo, ma tu dal punto di vista produttivo non avevi creato nulla. Ma nel 2005 le avrebbero risposto: ti diamo tanti soldi perché sei bravo, secondo me, che... quindi giusta la sua domanda, però dipende dal punto di vista. Allora, vediamo se riesco. Allora, cerco di andare verso la chiusura. Dunque, quali sono le conseguenze di questo incredibile aumento della disuguaglianza? Innanzitutto, il fatto che i redditi medi, la maggior parte della popolazione è rimasta al palo, con redditi che sono rimasti stabili. Ora, per fattori psicologici, sociali, che sono fattori molto importanti, per cui i nostri stili di vita sono fortemente condizionati da meccanismi emulativi, emulativi nei confronti di chi ci sta davanti, se vogliamo, allora questa differenziazione, questa forbice crescente tra le remunerazioni ha spinto quel meccanismo di rincorsa dei consumi da parte di chi anche non aveva le risorse, e quindi questa corsa ai consumi alimentata dal credito, che è stata anche la valvola, diciamo, il modo attraverso cui i politici si sono salvate le coscienze. Diamo soldi a tutti e il fatto che ci siano disuguaglianze crescenti non ce ne preoccupiamo molto. Ma poi c'è un altro fatto, questo da interpretare in chiave keynesiana, magari Luca potrà dirvi qualcosa, cioè il fatto che questa disuguaglianza genera un eccesso di risparmio. Questo eccesso di risparmio molto va in beni di lusso, molto alimenta la crescita, ma alla fine, diceva Keynes, per uno per quanto possa spendere, dopo che ha comprato 5 ville in Sardegna, però se ne ha talmente tanti che gli rimane, questi denari hanno bisogno di essere remunerati, questi denari alimentano il flusso finanziario, alimentano il grande circuito finanziario che richiede che quei capitali di risparmio siano remunerati, ma se non ci sono investimenti produttivi, questo gioco diventa un gioco a somma zero. Vediamo come chiudere. Guardate i dati sulla percentuale del debito rispetto al reddito disponibile. Nel 75 nelle famiglie americane prendevano in media il debito sulla percentuale del reddito disponibile al massimo il 60% del reddito. Sono arrivati nel 2005 al raddoppiare questa quota, quindi a prendere a prestito molto più del reddito disponibile. Evidentemente il sistema, insomma, questi dati sono allora vediamo. Allora, io chiuderei qua adesso semplicemente per accennarvi a questo libro. Io ho preparato questa relazione più o meno 2 anni fa, avevo avuto sentore nel mio testo, alla fine nelle note, vedete che cito l'edizione inglese di questo libro, che quest'anno poi è stata tradotta, e è molto interessante perché chi è questo Rajan? Un economista che insegna a Chicago, l'apice della rivoluzione neoconservatrice, Milton è di Chicago, la scuola di Chicago, quindi è un economista organico al mainstream economico, ma questo economista è un economista che nel 2005 è stato uno dei primi a scrivere un paper in cui diceva: attenzione, che con questo eccesso di liberalizzazione ci stiamo tra virgolette suicidando, perché i mercati sono fuori controllo. Insieme a Rubini è diventato uno dei massimi esperti della crisi. Rubini, magari qualcuno di voi l'avrà sentito, che peraltro qui in questa consiglia vivamente la lettura di questo libro. Allora ve lo cito e ve lo consiglio perché è proprio per uno degli economisti che opera, insegna nella roccaforte del pensiero neoliberale, neoconservatore, dedica un intero capitolo alla questione. Lui mette in evidenza le diverse linee di faglia, come le chiamano, che hanno generato l'instabilità che ha prodotto la crisi che stiamo attraversando, un intero capitolo, la parte introduzione, la parte terminale del volume, è dedicato alla mettere in evidenza come l'aumento della disuguaglianza sia un fattore di assoluta rilevanza. È interessante perché dice gli economisti perché spiegano questo aumento della disuguaglianza, gli economisti ortodossi. Lo spiegano dicendo che è il cosiddetto premium college. Oramai avere una laurea magari prestigiosa, è diventato molto remunerativa e questo ha creato una forbice tra chi ha le conoscenze e chi non le ha. Lui dice, se anche così fosse, no, vuol dire che il sistema americano però non è stato in condizione di produrre un numero sufficiente di persone con queste conoscenze, e questo ha generato una sorta di strozzatura del mercato, per cui gli Stati Uniti, la patria di quelle che viene ritenuto appunto del sapere globale, non è stato in grado di produrre un numero adeguato di persone qualificate. Questo ha generato una strozzatura nell'offerta che ha fatto aumentare le remunerazioni. E a monte di questa incapacità del sistema educativo di produrre queste persone sufficientemente istruite e qualificate, vi è il fatto che l'istruzione è diventata a tutti gli effetti un bene di mercato e come tale suscettibile di quei razionamenti che generano la disuguaglianza educativa. È uno dei fattori prioritari all'origine delle poi disuguaglianze di reddito, di status e di ricchezza. Io mi fermerei qui, ripeto, dato un taglio molto particolare, ho cercato di leggere questo fenomeno della crisi, che ripeto non è un argomento sul quale io sia particolarmente competente, con un'ottica che l'ha avvicinato invece a un tema che io affronto nei miei scritti, che mi interessa andare a leggere cosa pensano della disuguaglianza diversi economisti del passato più o meno recente. E do la parola a Luca, spero di avergli dato qualche stimolo per fare complementi. Torni all'ultima pagina, quella su risparmio. Sì, benissimo. Consumi. Indietro devo andare? Io mi parto da lì.